Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar. Ben ritrovati ad una nuova puntata di Pugno, un colpo al cuore e uno alla testa, per entrare in profondità nel mondo LGBTQIA+. E oggi analizziamo, insieme alla nostra ospite, Maya De Leo, quel processo storico affrontato dalla comunità LGBTQ+, e che viene collocato su scenari storici, culturali e geografici diversi. Perché la nostra ospite è autrice di Queer, storia culturale della comunità LGBTQ+, pubblicato a maggio del 2021 da Einaudi Storia, ed ha analiticamente affrontato il cammino storico della comunità, sia nell'Occidente europeo che nella società nordamericana. Queer, secondo me, è un libro necessario, estremamente documentato e che analizza 250 anni di storia. Questo volume rappresenta la prima storia completa delle sessualità e delle identità LGBTQ+ in Occidente. Maya, io ti saluto e ti ringrazio per essere qui con noi e per aver accettato il nostro invito e per partecipare al nostro speciale. Grazie a voi, grazie. Maya De Leo è docente a contratto di storia dell'omosessualità presso il corso di laurea al DAMS dell'Università di Torino, anzi è stata, mi correggo, è attualmente a due cicli di seminari all'Università di Trento e presso la Scuola Galileana degli Studi Superiori di Padova ed ha conseguito il dottorato di ricerca in storia presso l'Università degli Studi di Pisa. Maya, io ti ringrazio ancora e parto con la prima domanda. Come nasce il progetto Queer, che, come ho detto prima nella presentazione, è uno studio sulla comunità LGBTQ+, e dove tu l'hai inserito in un percorso storico dove viene evidenziato che la comunità LGBTQ+ sia una storia che comunque rimanda a prima del Novecento. Beh, grazie per questa prima domanda che già mi consente di dire diverse cose. E allora, il progetto del libro è nato soprattutto, cioè è nato dall'esperienza didattica, no? Come dicevi tu, ho insegnato per 5 anni questo corso di storia dell'omosessualità al DAMS di Torino e appunto io mi ero occupata di storia della comunità LGBT, dei movimenti LGBT, di storia della sessualità nel lungo 800 e quindi quando ho vinto questo bando per questo concorso ero molto, molto contenta, però anche mi sono detta: e ora le persone che seguiranno i miei corsi su quali testi potranno studiare? Quindi per i primi 2 o 3 anni ci siamo un po' mi sono organizzata con fotocopie, saggi anche in lingua inglese, che insomma non tutte le persone che seguivano il mio corso leggevano l'inglese, più che altro con materiale fornito da me, quindi slides, e mi sono resa conto insomma che c'era un sacco di produzione storiografica, teorica su questo tema che non era accessibile al pubblico italiano e al pubblico insomma, a parte insomma quello ristretto dell'Accademia. E quindi ho capito che insomma un libro che avesse questi due diciamo, obiettivi, quello di portare anche al pubblico italiano tutta questa storiografia che ormai insomma diciamo che ha una quarantina d'anni sulla comunità LGBT, più e anche insomma diciamo un libro che potesse dare una visione d'insieme, insomma, avrebbe avuto del potenziale. Infatti, insomma, poi la risposta della casa editrice Einaudi è stata una conferma In effetti un libro così mancava. Infatti, i due aggettivi che hai usato tu per il mio libro, necessario e documentato, sono quelli che sono stati più utilizzati proprio nelle presentazioni, perché proprio ci sono questi due, no? Questi due obiettivi, quello di fornire uno strumento sulla storia della comunità LGBT e di fornire anche, dare un'idea della ricchezza del materiale, della storiografia su questo tema. E poi molto importante anche questa cosa che hai detto, insomma, del cammino storico della comunità LGBT, che insomma non inizia col Novecento. In realtà, appunto, persone che hanno vissuto ai margini, fuori dalle norme di genere e sessualità dei loro contesti, sono sempre esistite, e in particolare. Io mi occupo di storia contemporanea e quindi ho voluto riscrivere, diciamo così, la storia contemporanea dalla prospettiva appunto queer, cioè di quelle soggettività che si muovono in aperta sfida diciamo, alle convenzioni rispetto al genere e alla sessualità del loro tempo. Quindi, insomma, proprio mi sembrava importante dare questo sguardo di lunga durata. Come hai detto tu, appunto, sono 250 anni e in pratica ripercorro appunto tutta la storia contemporanea dando questa prospettiva, insomma, inedita. Il tuo studio parte dal Settecento, cioè dall'inizio dell'età contemporanea. E che idea c'era sulla sessualità e che concezione si aveva, diciamo, dei generi? Soprattutto perché in quegli anni si inizia a considerare solo la binarietà sessuale e quindi un corpo eteronormativo. E ciò quanto ha diciamo, potuto incidere sulla nascita di una società omofobica. Eh sì, diciamo che il mio obiettivo era quello di mostrare appunto come la particolare forma dell'homo, lesbo, bi, intersex, trans, queerfobia dell'età contemporanea fosse proprio appunto propria dell'età contemporanea, no? Perché spesso tendiamo a pensare che certi pregiudizi, certe discriminazioni siano un po' il retaggio, no? Che viene dal passato, no? Prima spesso sentiamo dire il Medioevo, i secoli bui. In realtà, quello che mi piaceva appunto mettere in luce con questo libro era proprio come si costruisce in età contemporanea una certa visione dei generi, della sessualità e appunto una specifica costruzione dell'idea di normalità che si viene a sovrapporre a quella di eterosessualità e di cis-eterosessualità. In particolare, come accennavi tu, l'idea del binarismo di genere, cioè quel sistema di genere in cui si concepiscono in pratica due poli, il maschile e il femminile, come due gruppi, due poli attorno al quale si possono individuare due gruppi di persone sostanzialmente dissimili, caratterizzati da un fisico diverso, delle caratteristiche fisiche diverse, ma soprattutto delle inclinazioni, no, diverse, quella idea appunto del maschile e del femminile come sostanzialmente una complementarità asimmetrica, eh? Cioè una complementarità che però non significa uguaglianza, ma che è funzionale all'oppressione delle donne. Molto velocemente faccio accenno a come era concepito prima il sistema di genere, diciamo in un lungo periodo che va dall'età classica, dalla Grecia antica appunto al Settecento e appunto anche in tutti questi secoli ovviamente esisteva l'idea di maschile e di femminile e ci si pensava come uomini e donne e tuttavia l'idea della differenza sessuale era immaginata più come una differenza di quantità piuttosto che di qualità, ovvero per dirla un po' brutalmente, le donne erano immaginate come versioni un po' imperfette, un po' difettose, dell'umanità, cioè dell'uomo. L'uomo invece era la forma più perfetta di umanità. Questo non significava dunque che c'era maggior uguaglianza, l'oppressione delle donne però era giustificata in maniera diversa, cioè si immaginava di poter quantificare la differenza sessuale, mentre in età contemporanea si afferma invece un'idea, una concezione del genere. Come costruito attorno a due poli incommensurabili, profondamente diversi. E questa diversità soprattutto affonda le sue radici nella biologia e quindi in pratica è questa equazione donne uguale maternità uguale riproduzione. Tutto questo ovviamente si lega anche ai cambiamenti storici in atto nel Settecento e quindi la nascita dello Stato-nazione, quindi questa diciamo come si dice, pressione alla riproduzione e appunto alla crescita demografica, che appunto assume un valore, politico ben preciso nel quadro del nazionalismo ottocentesco. Infatti tu nel libro dici che alla donna gli viene assegnato un ruolo, diciamo, solo di carattere naturale. Sì, c'è cioè questo ancoraggio alla biologia molto forte e in tutto questo ovviamente appunto la medicina, la psichiatria, la criminologia, le nascenti scienze umane sono quelle che sono deputate a investigare appunto la sessualità e in particolare le sessualità eccentriche e quindi dove sempre molto semplificando prima fino a e appunto in età medievale e moderna le diciamo trasgressioni da un punto di vista di genere e di sessualità erano considerate come condotte riprovevoli, sicuramente stigmatizzate, anche punite dai tribunali sia civili che canonici, ecclesiastici. Invece in età contemporanea vediamo che l'ambito principale in cui si studia e si costruisce anche la criminalizzazione, la stigmatizzazione della comunità LGBT è proprio la medicina, la psichiatria, la criminologia e così via. Ovviamente, appunto, tutte queste comportamenti, queste identità che in qualche modo fuoriescono dalla coppia eterosessuale procreativa sono stigmatizzate non solo come diciamo appunto anormali, moralmente condannabili, ma anche come in qualche modo nemici politici che appunto si chiamano fuori, no? Dal imperativo del moderno nazionalismo che chiama i cittadini e le cittadine, insomma, a ruoli ben precisi. Da una parte quello della guerra del cittadino soldato per i maschi e della riproduzione delle madri riproduttive per le donne. Questo, insomma, è un po' il quadro in cui mi interessava mettere inserire, no, la storia, le vicende della comunità LGBT perché vediamo, insomma, come quanto inchiostro è stato speso, quante parole, quanta preoccupazione, no, nei confronti di questa parte della popolazione che tutto sommato, no, ci si chiede, insomma, ma perché era così considerata così pericolosa? Infatti tu parli proprio di sodomiti, di tribadismo, ermafrodismo e ermafroditismo, e si inizia a parlare di corpi intersex, e questo avviene alla fine sul finire del Settecento. Infatti poi, come dici tu, oltre ad una vivace, diciamo, produzione letteraria che c'è in quegli anni, c'è anche una forte repressione della polizia, ed è proprio in quegli anni che nasce la nuova concezione di omosessualità, che è destinata ad una persistenza di lunga durata. Come mai accade tutto ciò in quel periodo storico? Beh, appunto, quel processo che stavo descrivendo prima, appunto la nuova organizzazione sociale delle persone, il nuovo, nella nuova cornice dello Stato-nazione, no? Porta proprio a ridiscutere il concetto di identità, di nuovo, diciamo prima nelle società di antico regime, come dicevo prima, ovviamente esistevano le categorie di uomo e donna, ma si intrecciavano anche a altri tipi di categorizzazioni, soprattutto con l'organizzazione delle società in ceti, no? Avevamo l'aristocrazia e diciamo che la differenza di genere era una delle tante differenze, no? Che caratterizzavano gli individui. Con l'organizzazione nello Stato-nazione ci si immagina invece come appunto un unico corpo sociale, il più possibile omogeneo anche da un punto di vista, no, proprio biologico, ci si immagina come una grande famiglia, quindi che condivide una stessa genealogia, che produce una progenie, no, anche biologicamente omogenea. Questo ovviamente nelle immagini, nella narrazione del nazionalismo, e questo fa capire anche tutte le implicazioni politiche che sono investite. Che di cui viene investita la riproduzione, la natalità, la sessualità. Ovviamente tutte quelle soggettività, come ad esempio appunto le soggettività intersex o queer, trans, che insomma scattano da questo forte binarismo, dimorfismo, e sono corpi immaginati appunto difficilmente. Come si dice, che difficilmente possono essere inseriti in questo immaginario. E quindi diciamo, sulla scorta dei lavori di uno storico che si chiama George Mossi, che per primo ha proprio messo in luce il legame tra genere, sessualità e nazionalismo, il suo famoso libro Sessualità e Nazionalismo. Proprio ho cercato di mettere più in luce possibile proprio questa nuova centralità del binarismo di genere alla nascita dell'età contemporanea. Nel tuo libro sottolinei che le radici della comunità LGBTQ+ è dovuta soprattutto ai centri urbani che hanno raccolto quei semi che venivano piantati da omosessuali e lesbiche e dalle persone transgender, e dove viene data vita proprio ad una vera sottocultura e dove c'è una forte vivacità anche culturale e di libertà sessuale, e si poteva manifestare apertamente la propria identità di genere. Ad esempio a Berlino, come tu sottolinei nel libro, ci sono ipodromi di un associazionismo attivo e dove si inizia a parlare di terzo sesso. Sì, diciamo che sì, da una parte appunto tutto quello che dicevo prima, quindi la descrizione di come nasce la stigmatizzazione, la patologizzazione delle soggettività LGBT, Q+, però ho voluto anche fare una storia insomma invece della resistenza sia individuale che collettiva delle soggettività LGBTQ. E i primi segni di una organizzazione anche appunto collettiva che crea una vera e propria sottocultura, se la registriamo proprio nei grandi centri urbani. Dalla fine dell'Ottocento questa sottocultura è molto vivace politicamente, culturalmente, è molto visibile nelle città, ci sono quartieri, zone con grandi occasioni di incontro. E poi appunto anche una vivacità politica notevole, perché in genere, no, siamo abituati a pensare come la storia della comunità LGBT che inizia, no, con i moti di Stonewall nel 1969, e prima era solo un'esistenza segnata dal nascondimento, dal silenzio, eccetera. Invece vediamo che all'inizio del Del Novecento abbiamo appunto Berlino, è il caso più clamoroso, in cui da una parte è vero abbiamo ancora la criminalizzazione del reato di sodomia, ma dall'altra una sottocultura molto vivace, appunto tantissime associazioni che chiedono appunto la depenalizzazione dell'omosessualità. Abbiamo un centro per la ricerca sessuale diretto da Hirschfeld, questo medico tedesco che è il primo a mettere a punto anche l'idea di transgenderismo, i primi anche interventi per la conferma del genere, poi appunto riviste periodiche, proprio come si dice, espressione della comunità LGBT. Questo appunto è visibile nelle grandi città europee e statunitensi e appunto nel tessuto urbano proprio emerge questa presenza sempre più visibile anche per chi non fa parte della comunità. Però, come evidenzi nel libro, che inizia sì ad esserci una prima costruzione della comunità LGBTQIA+, però a questo nascono quei primi movimenti femministi che però prendono le distanze dal lesbismo. Come mai? Beh, tra lesbismo e femminismo il rapporto è sempre complicato, sia in questa prima fase del cosiddetto primo femminismo, sia in quella poi degli anni 70 del cosiddetto femminismo di seconda ondata. Beh, da un lato c'è sicuramente da un lato c'è una sovrapposizione, nel senso che spesso in realtà di alcune femministe sappiamo o possiamo immaginare una queerness, un lesbismo nella loro vita. Dall'altro, molte che vivevano, appunto, animavano i network lesbici di questo periodo sono magari impegnate come femministe o portano avanti delle rivendicazioni femministe. Dall'altra, però, non sempre è così. Abbiamo appunto alcune femministe che temono per questa associazione. Molta della retorica antifemminista del periodo insisteva proprio su questo aspetto, dicendo che le femministe erano in qualche modo degli uomini, dei mezzi uomini, dei mostri. Dal sesso indefinito, c'era una costruzione delle femministe molto insistita proprio su questo aspetto qui. Quindi la necessità, il desiderio delle femministe di allontanare da sé questo tipo di accuse. Dall'altra anche parte diciamo così, del network lesbico non abbracciava in realtà rivendicazioni femministe. Molte delle autrici che cito nel libro in realtà sposavano convinzioni più in realtà conservatrici, cioè ritenevano loro di essere delle donne in qualche modo, delle persone in qualche modo eccezionali, però non richiedevano in realtà un percorso di emancipazione per le altre donne. Quindi in realtà è molto complesso questo rapporto ed è anche molto estremamente interessante. Quello che è interessante da notare è soprattutto questo, come l'idea del lesbismo sia soprattutto stata agitata nella trattatistica, nella pubblicistica, proprio come un po' spauracchio da agitare ogni volta che c'erano in qualche modo delle rivendicazioni femministe o femminili, ad esempio appunto la richiesta per il diritto di voto che appunto si temeva avrebbe trasformato le donne di nuovo, le avrebbe mascolinizzate, la richiesta per l'accesso al lavoro di nuovo veniva agitato lo spauracchio della donna virilizzata, mascolinizzata e così via. Quindi questa dialettica è molto interessante e impronta un po' molto del rapporto tra lesbismo e femminismo. Maia, tu poi nel quarto capitolo del libro affronti il problema del colonialismo e del razzismo. Ti va di affrontare la questione? Beh, sì, diciamo che molto velocemente, dunque, diciamo che genere e razzializzazione sono sempre intrecciate tra di loro. Come dicevo prima, tutti i discorsi relativi al genere hanno a che fare al controllo della sessualità, della riproduzione, no? Come dicevo prima, hanno a che fare con questa vagheggia, con questo vagheggiamento di purezza, di salvaguardia di una supposta purezza, no? Biologica. Quindi si sposano spesso con teorie razziste, eugenetiche, eccetera. Analogamente, ogni processo di razzializzazione, ogni discorso razzista è intriso di riferimenti al genere, alla sessualità. Quindi sono due campi fortemente intrecciati. Per quanto riguarda il capitolo, ho accennato soltanto proprio a questa costruzione dell'immagine delle terre, delle popolazioni colonizzate come anche soggettività sessualmente disponibili e come appunto scenario anche omoerotico per diciamo, per l'immaginario omosessuale dei paesi colonizzatori. Quindi c'è tutta una costruzione relativa ai paesi, ai popoli colonizzati, che è intrisa di riferimenti alla sessualità e anche alle sessualità queer. Questo, appunto, nel mio libro è solo accennato, però è un argomento molto interessante che sicuramente va ulteriormente analizzato. In tutto questo, ovviamente, c'è anche l'Italia che fa un po' diciamo, viene c'è un mito dell'Italia che viene costruito tra la fine dell'Ottocento e il Novecento dai turisti omosessuali stranieri che costruiscono proprio l'idea dell'Italia come paradiso in cui è possibile, diciamo così, regredire ai tempi dell'antica Grecia, della classicità, perché in un qualche modo l'Italia è vista come un paese che si è fermato un po' a quello stadio lì. Poi ovviamente andando avanti con il libro si arriva agli anni 30 e quindi si arriva all'avvento del nazismo e del fascismo dove tutto viene, si può dire, azzerato. Eh sì, come dicevo prima, per esempio la vivacità di Berlino, ovviamente il nazismo spazza via tutte le organizzazioni, ma anche le tracce proprio materiali, no? Di quella sottocultura. Ovviamente è tutta una storia che è stata ricostruita poi dagli storici, dalle storiche, da asterisco storico. Asterisco a partire dagli anni 80, perché del Novecento, proprio perché una degli effetti di questa violenza anche del nazismo, dei regimi nazifascisti, è stata anche proprio quella di cancellare queste tracce, che poi è stato più difficile ricostruirle. È una memoria che si è recuperata appunto.